cerco di immaginarti dove sei, cerco pure di sfiorarti, ma non ci sei. Potrei scalare le montagne, anche le cime più lontane, quelle che non vedi mai, non farebbe te, cercherei di te. Mi chiede di te, non so rispondere.